non cercate, lontano andò, lontano andò. Non cerco per l'ancolo, non cerco per l'ancolo, io non presto spiegare. Ma se non posso. Presto, Mabella, spiegati. A fumo e fuoco, badate un poco, uomo di sasso, fermate il passo. Giusto, là sotto, viene il gran botto, giusto là il diavolo, sento un suo. Che sento? Però è l'evento. Questa fine, questa fine.